Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Tangente all'ATM di Milano, 12 arresti per corruzione nel mirino degli inquirenti, gli impianti di segnalamento e frenata sulla M2. Zanardi in condizioni stabili all'ospedale di Siena per la quarta notte di fila. Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari, stava festeggiando sul lungomare il suo compleanno. La riforma fiscale si farà, lo conferma il ministro dell'economia Gualtieri a Telefisco, evento annuale del Sole 24 Ore. Calcio, avanti con la 27esima di Serie A, stasera si giocano altre 3 partite. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Tra poco le ultime notizie su Alex Zanardi, ma anche le parole del ministro dell'economia Gualtieri sulla riforma fiscale. È intervenuto Gualtieri al Telefisco organizzato dal Sole 24 Ore. Tra poco tutto questo, prima la cronaca con le notizie degli arresti di questa mattina a Milano da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, arresti per tangenti al centro delle indagini degli inquirenti, gli appalti per i lavori all'ATM di Milano. 13 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti e appalti truccati relativi alle forniture per le metropolitane milanesi. Per 12 di loro, tra cui alcuni imprenditori, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, un altro invece è ai domiciliari. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato e abuso d'ufficio. Al centro dell'indagine 8 appalti da 150 milioni di euro, mentre risultano indagate 30 persone fisiche e 8 società, tra cui Siemens Mobility e Alstom Ferroviaria. Tra gli arrestati figurano Paolo Bellini, dirigente da 24 anni dell'ATM, l'azienda dei trasporti del Comune di Milano, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane. A Bellini vengono contestate presunte tangenti per 125.000 euro tra il 2018 e il 2019. Tra gli appalti al centro dell'inchiesta, uno sulla manutenzione di impianti di telecomunicazione della linea 5 della metropolitana milanese e uno sui sistemi di segnalazione automatica della linea 2 verde. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. E adesso, come anticipato, le ultime notizie su Alex Zanardi. È stato rinviato in realtà il bollettino previsto per mezzogiorno. Ubaldo Cianciulli, buongiorno, ben ritrovato. C'è un motivo per cui è stato rinviato il bollettino? Ma senti, per il momento non si è appreso nulla in tal senso, è slittato come stanno slittando un po' i bollettini di questi ultimi 2 giorni. Per quello che è trapelato, le condizioni sono sempre stabili per Alex Zanardi, questa è una buona notizia confermata anche dallo staff medico. Infatti, dopo il grave incidente subito, 4 notti trascorse intubato in coma farmacologico e assistito meccanicamente per la respirazione, il fisico del campione azzurro regge e non molla. Mentre invece sul fronte dell'inchiesta condotta dalla sostituto procuratore di Siena, Serena Minicucci, sono state ascoltate diverse persone, testimoni e organizzatori dell'iniziativa sportiva che venerdì scorso stava attraversando la campagna senese, in particolare il comandante della Polizia Municipale di Pienza che scortava il gruppo di ciclisti invitando gli altri veicoli a rallentare, ascoltato anche Enrico Fabianelli, ciclista che era nella staffetta con Zanardi e che ha confermato la natura non competitiva della manifestazione e quindi non necessitava a suo dire della chiusura delle strade. Eravamo accompagnati, ha detto, dall'auto della Polizia Municipale che presidiava anche gli incroci più pericolosi ed è proprio su questo punto che ruota l'inchiesta sui permessi non richiesti dagli organizzatori per capire se ci siano a loro carico eventuali responsabilità penali. È confermata anche dal procuratore capo Salvatore Vitello la perizia tecnica sulle imbarche di Zanardi e per quello che riguarda il bollettino medico aspettiamo a questo punto un'altra oretta per vedere se ci sono novità oppure se la situazione di Zanardi rimane stabile. Comunque sia, l'equipe medica in questi giorni dovrà capire se, quando e con quali modalità risvegliare lentamente Zanardi dal coma farmacologico. Grazie. Grazie Ubaldo Cianciulli. Dunque, queste le notizie su Alex Zanardi. Adesso, come anticipato, ci occupiamo invece delle parole che sono arrivate da parte del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, intervenuto all'evento sulle novità fiscali dell'anno Telefisco, organizzato dal Sole 24 Ore. Bene, anche se non c'è ancora un accordo nella maggioranza su quale strada seguire per una riforma fiscale, è una riforma che è stata confermata da Gualtieri. Sentiamo. Ammortizzatori sociali, proroghe, ricapitalizzazione bonus del 110%, tutte le novità normative da comprendere e approfondire per i contribuenti professionisti in un video forum Obiettivo Rilancio speciale Telefisco organizzato dal Sole 24 Ore, che domani dedicherà 4 pagine ai temi emersi nell'evento in diretta online. I rappresentanti delle categorie ordinistiche, consulenti del lavoro e commercialistiche hanno ricordato come oltre 10 milioni di lavoratori siano in cassa integrazione, ma quasi un professionista su due ha chiesto sostegno. Nel suo intervento Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle Finanze, ha precisato i lavori per la riforma fiscale annunciata continueranno. Si possono definire dei spazi per una riforma fiscale che noi, come abbiamo sempre detto, deve essere orientata alla semplicità, alla progressività, alla riduzione del carico fiscale sul lavoro, sull'impresa e al contrasto all'evasione fiscale. Resta il no ai condoni fiscali e l'impegno per la semplificazione che si è visto già in emergenza con un'alta percentuale di misure autoapplicative senza decreti attuativi. E riguardo alla situazione dei conti pubblici, Gualtieri ha rassicurato: non siamo preoccupati, avevamo previsto una riduzione delle entrate che c'è stata, ma è stata sempre in linea con le previsioni o inferiore. Un segnale incoraggiante, la tenuta della finanza pubblica appare solida. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora con la politica, perché in vista delle elezioni regionali in 6 regioni il centrodestra ha definito le sue candidature unitarie. Dall'altra parte invece Movimento 5 Stelle e pezzi del centrosinistra, da Italia Viva alla sinistra, si presenteranno separatamente. A questo è dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. Per i partiti che sostengono il governo Conte, il vero banco di prova si tiene alle regionali 2020 del 20 settembre. In Emilia-Romagna, in Calabria, l'elettorato si è già espresso lo scorso 26 gennaio e sappiamo com'è andata con le vittorie di Stefano Bonaccini per il centro-sinistra e Iole Santelli per il centro-destra. Ora la partita diventa più interessante perché si vota in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e in Valle d'Aosta. Il PD allarga le alleanze a liste civiche locali e i gruppi intorno all'EU. Il 5 Stelle, Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi correranno separati, così come le sigle della sinistra avranno loro candidati autonomi, ed è ovvio che la mancata unità peserà non poco sull'esito finale. In Puglia, ad esempio, Italia Viva schiera Ivan Scalfarotto in netta contrapposizione alla candidatura di Michele Emiliano. I candidati del centrodestra saranno invece Francesco Acquaroli nelle Marche, Stefano Caldoro in Campania, Susanna Ceccardi in Toscana, Raffaele Fitto in Puglia. Vengono confermati Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto, ma l'Election Day prevede l'accorpamento del voto regionale al primo turno delle amministrative e al referendum sul taglio dei parlamentari. In caso di sconfitta dei candidati di centrosinistra e del 5 Stelle si possono verificare inevitabili contraccolpi sulla tenuta politica della maggioranza e tutto nell'incertezza economica dovuta all'emergenza sanitaria. Punta sempre in alto la curva della pandemia di coronavirus a livello globale e in special modo in America Latina, dove ha superato i 2 milioni di contagi e si avvicina ai 100.000 morti. Il paese più colpito nell'area resta il Brasile con 51.271 vittime. Negli Stati Uniti le vittime nelle ultime 24 ore sono state 425 e i contagi hanno raggiunto 2.300.000 persone. Invece la Germania ha deciso di isolare la zona nuovo focolaio del coronavirus, la zona del mattatoio nel Reno, Nord Reno-Vestfalia. Alla fine il Land del Nordrhein-Westfalia ha ceduto, arrendendosi all'evidenza. Il distretto di Gütersloh torna in lockdown per contrastare la possibile nuova ondata di coronavirus legata al mattatoio Tönnies. I contagi nell'azienda di carni superano ormai i 1.500. Si tratta del focolaio maggiore mai rilevato finora in Vestfalia e in Germania, ha sottolineato il ministro presidente del Land, Laschet. L'infezione è localizzata. Al momento soltanto 24 casi positivi sono stati registrati al di fuori del mattatoio, ma il lockdown è stato scelto come misura precauzionale. La chiusura del distretto varrà una settimana fino al 31 giugno, divieto di contatto per oltre 2 persone, chiusi bar, palestre, cinema, teatri, musei, memoriali, sarà proibito anche fare sport in luoghi chiusi. Gütersloh conta circa 370.000 abitanti, anche nel vicino distretto di Warendorf sono state prese misure restrittive. Più in generale cala il numero delle vittime da Covid-19 in Germania, ma il fattore di riproduzione R0 continua ad essere molto alto, 1,83, un incremento che dipende soprattutto da focolai circoscritti come quello di Gütersloh. Ma la situazione ovviamente desta più di una preoccupazione. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora la cronaca e torniamo in Italia. L'ex direttore del TG4 Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Si trovava con la moglie a Napoli sul lungomare in occasione del suo compleanno. Avrà ceduto alla tentazione della bellezza del lungomare di Napoli e a una buona pizza, ma non è stato un bene per Emilio Fede, abitué del capoluogo campano, dove ieri sera era tornato per cenare con la moglie, l'ex senatrice di Forza Italia, Diana De Feo, in un ristorante di via Partenope, e dove è stato raggiunto dai carabinieri in borghese, che lo hanno invitato a rientrare in una casa ma in albergo, perché secondo i PM di Milano avrebbe lasciato la sua abitazione milanese dopo aver scontato 7 mesi agli arresti domiciliari e dove doveva completare la pena con 4 anni di servizi sociali, in attesa dell'autorizzazione del giudice del Tribunale di Sorveglianza milanese che in giornata avrebbe dato l'ok al suo viaggio a Napoli. L'ex direttore del TG4, finito agli arresti per una condanna definitiva nell'ambito del processo Ruby Bis, sarebbe partito in treno dopo aver informato i carabinieri di Segrate e avrebbe fatto rientro a Milano giovedì prossimo, giusto il tempo di festeggiare l'89esimo compleanno domani. Contattato nell'albergo in cui ha trovato alloggio ieri, ha definito l'episodio terrorizzante e ha sottolineato che 6 giorni fa il Tribunale di Milano gli ha comunicato che gli era stata concessa una liberazione anticipata. Laura Vigiano, Radio 24, Sole 24 Ore, Napoli. Caso Chiara Poggi, la difesa di Alberto Stasi ha depositato una richiesta di revisione della sentenza che ha condannato a 16 anni di reclusione l'ex fidanzato e la ragazza. Lo ha fatto sapere l'avvocato Laura Panciroli, nominata nel dicembre scorso proprio per una completa rilettura della complessa vicenda processuale finalizzata alla sua revisione. Chiara Poggi era stata uccisa a Garlasco, lo ricorderete, il 13 agosto del 2007, l'autore dell'omicidio fu identificato nell'allora fidanzato Alberto Stasi. Siamo allo sport con il calcio e per la 27esima giornata di Serie A si torna a giocare stasera, Carlo Genta. Si torna a giocare stasera, ma soprattutto si è giocato ieri sera 2 partite molto significative, perché dalla Juventus si chiedeva una risposta dopo la sconfitta in Coppa Italia e le difficoltà latenti. Bene, risposta che è arrivata grazie ai suoi fuoriclasse, cioè Dybala, Ronaldo, 0-2 a Bologna. Un Milan invece dilagante a Lecce, addirittura 4 gol segnati ai rossoneri senza Ibrahimovic, che però è notizia di ora, potrebbe tornare contro la Spal perché è in via di guarigione. Dunque queste i 2 argomenti di discussione, insieme ad una Fiorentina nella quale rientra Ribéry, che pure brilla moltissimo ma non va oltre l'1-1 in casa con il Brescia. Questa sera, oggi sono altre partite, tra cui spicca alle 19.30 Verona-Napoli, 2 squadre in grandi condizioni, quindi ci stiamo divertendo e poi ne parliamo. Grazie Carlo, ti ritroviamo naturalmente con tutti i convocati dopo il giro delle 14. Noi adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, 349-238-6666. Ripartiremo dal caso EasyJet in Calabria. A causa di mafia e terremoti non ci sono turisti, quindi è l'anno giusto per andare a visitarla. Questo stravagante annuncio pubblicitario ha ovviamente causato le ire di molti calabresi, ne parleremo tra poco. EasyJet ha chiesto scusa, ma ormai il danno è fatto. A tra poco. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Tangenti alla TM di Milano, 13 arresti per corruzione negli appalti ai lavori sulla M2. Zanardi in condizioni stabili all'ospedale di Siena per la 4ª notte di fila. EasyJet, venite in Calabria, non c'è nessuno a causa di mafia e terremoti. Poi la compagnia si scusa, volevamo dire che è una terra da scoprire. Voli cancellati senza rimborsi, interviene l'ENAC, multe in arrivo, ne parliamo tra poco. Eccoci qua, 13:17 minuti, cari ascoltatori, questi i titoli delle notizie di oggi. Tra le notizie di oggi, avete sentito, c'è anche questa, come possiamo definirla, una gaffe della compagnia aerea EasyJet. In realtà si tratta di un vero e proprio invito stravagante a visitare la Calabria, apparso sul sito della compagnia aerea, la quale poi ha chiesto scuse ufficiali per questo intervento, ma ormai il danno era fatto. Cosa recitava questo invito turistico? Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiose e di terremoti, e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram. Poi appunto sono arrivate le scuse da parte della compagnia, ma ormai il danno di immagine era fatto. Vediamo se siamo in grado di collegarci con il sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà. Vediamo, perché c'è un problema con la linea. La prima domanda naturalmente che volevamo fargli è se le scuse sono accettate. Siamo abituati a pubblicità, spot, anche di, in particolare proprio delle compagnie aeree che cercano sicuramente visibilità in molte situazioni, diciamo creando anche slogan provocanti. In questo caso poi le scuse sono sembrate peggio, quasi come si dice, la toppa peggio del buco, perché è stato detto: volevamo solo dire che la Calabria è una terra da scoprire. E va bene, alla faccia. È con noi il sindaco di Reggio Calabria. Sì, buongiorno, benvenuto a Giuseppe Falco Matà. Buongiorno, grazie a voi. Allora, io mentre attendevamo di collegarci con lei, abbiamo anticipato qualche minuto il collegamento, quindi diciamo c'era una difficoltà di reperimento, sindaco, da parte sua, ma non era colpa sua, è colpa nostra che abbiamo anticipato il collegamento. Ho ricapitolato quello che ha scritto la compagnia, insomma, e poi anche che ci sono state le scuse, eccetera. Scuse accettate, le chiedo? Ce la saremmo potuta risparmiare, sinceramente, perché è una cosa a metà fra il grottesco e il ridicolo, è una cosa davvero vergognosa ed è, come dire, difficile doverne parlare dopo così tanto tempo, ancora sentire la nostra terra promossa, tra virgolette, per la mafia e i terremoti. Sinceramente è una cosa che davvero non comprendiamo più ed è ormai anche posticcio doverne parlare. È come se si propone di andare a visitare l'Asia perché magari c'è uno tsunami e potrebbe essere l'ultimo viaggio della vita. È come andare a promuovere un viaggio a Londra e dire: venite nella terra di Jack lo Squartatore. Ogni terra, ogni zona, ogni città, ogni territorio ha le proprie difficoltà, nessuno le nega, e chi è impegnato politicamente, chi è impegnato all'interno delle istituzioni, lavora ogni giorno per superarle quelle difficoltà, lavora ogni giorno per sconfiggere mafia, 'ndrangheta e corruzione, ripristinare la normalità e la legalità. Però questa è una terra ricca di storia, di cultura millenaria, ricca di bellezze naturali, ricca di paesaggi, di mari, di monti e di colline, e chi dovrebbe avere anche un'utilità personale a promuovere e a incentivare il turismo nei confronti di questi territori, sinceramente dovrebbe pensare ad altro. Però diciamo, chiudiamola come un abbaglio, come il primo sole estivo, accettiamo le scuse e speriamo, insomma, che EasyJet, oltre a volare sulla Lamezia, si renda conto di quanto la Calabria è bella e da scoprire, e chi la visita poi rimane, ecco, con un ricordo affascinato di una terra anche accogliente, una terra che di rimane dentro anche per le persone che ci sono, oltre che per i luoghi. Ecco, Falco Matà, semmai se l'invito voleva essere quello di dire venite a scoprire la Calabria, che ha ancora degli angoli da scoprire, sicuramente per certi aspetti è meno visitata della Sardegna, più famosa, tutto quello che volete, però si poteva usare, diciamo, una forma linguistica, degli argomenti diversi, un ragionamento diverso. Lei in parte lo ha già fatto. Prima di salutarci, volevo chiederle un'ultima cosa riguardo proprio al rapporto con le compagnie aeree low cost come EasyJet, in questo caso, che hanno sicuramente contribuito al turismo locale in questi anni per quanto riguarda la Calabria, ma che poi spesso sono accusate di pratiche al limite proprio della scorrettezza. Oltre il caso di questa pubblicità, c'è la questione dei voli cancellati senza rimborsi, ne parleremo tra l'altro tra pochissimo. Lei che bilancio fa del rapporto della sua terra con queste compagnie aeree? Negativo, perché al Reggio Calabria, all'aeroporto di Reggio, queste compagnie, pur avendo ora la possibilità di atterrare, non arrivano. Ovviamente questo non è soltanto responsabilità delle compagnie stesse, è responsabilità anche della strategia e dei piani industriali della società regionale che gestisce gli aeroporti, però anche su quelle che sono, diciamo, gli arrivi sugli altri due aeroporti, che sono quello di Crotone, peraltro adesso chiuso, e quello di Lamezia, ancora i privati, se vogliono, fanno il bello e il cattivo tempo. Quindi l'approccio deve essere quello, diciamo, di una prestazione fra chi la offre e chi la dà, diverso rispetto a quello che spesso, come dice lei, è il ricatto, tra virgolette, al quale queste compagnie low cost sottopongono gli aeroporti. Ecco, grazie, perché è fondamentale, sì, che accanto alle compagnie low cost rimangano le compagnie, tra virgolette, di bandiera o ex bandiera, a riequilibrare il tutto. Grazie al sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, grazie per essere stato con noi. Vabbè, insomma, le compagnie di bandiera, fra l'altro c'è una notizia, noi abbiamo l'Alitalia, quel che resta dell'Alitalia, c'è una notizia di poco fa del ministro De Micheli, l'elemento chiave della disposizione sulla NewCo Alitalia, sapete, la nuova compagnia a maggioranza pubblica con un investimento di 3 miliardi da parte del governo, dice a De Micheli, è la discontinuità, la nuova società partirà da zero con un progetto di sviluppo e di rilancio. Parola, di la verità, che abbiamo sentito dire milioni di volte, ma abbiamo già anticipato il prossimo argomento, che riguarda ancora le compagnie aeree, ed è la questione dei voli cancellati, così all'improvviso, e però dei mancati rimborsi. Arrivano i voucher. Ha acceso un faro l'ENAC, l'ente per l'aviazione civile, che ha detto: attenzione, così non si va avanti, arriveranno delle multe, perché c'è già stato un invito a non procedere oltre con questa pratica. Ne parliamo con Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ben ritrovato, Dona. Grazie a voi, buongiorno. Allora, la premessa è questa: dal 3 giugno, da quando si è ripreso, diciamo, ci siamo ripresi la libertà di spostarci sul territorio nazionale, ma anche all'interno dell'Europa, non ci sono più limitazioni oggettive agli spostamenti, quindi cause per cancellazione di voli oggettive non ce ne sono, eppure le compagnie continuano in questa fase a cancellare molti voli regolarmente iscritti nei siti di prenotazioni. Intanto, Dona, si è capito perché lo fanno? Per ragioni commerciali, perché non ci sono abbastanza persone disposte a volare? Che sta succedendo? Ma lo fanno perché è molto comodo rimborsare attraverso i voucher. Mm. Questo era un meccanismo previsto in tempo di emergenza. Ricordiamo che si comprimono con i voucher i diritti dei consumatori, perché tutti noi avremmo diritto, in caso di cancellazione o alla riprotezione su un altro volo, a un rimborso in denaro. Invece, in tempo di emergenza, come misura, diciamo, di attenzione verso il settore turistico, il governo ha previsto questi voucher. Il punto è che i voucher non sostituiscono la normativa ordinaria sine die, cioè anche oggi che l'emergenza è finita. Dal 3 giugno in poi non è possibile cancellare un volo rimborsando con i voucher. Eppure le compagnie stanno un po' giocando con le norme, secondo noi alcune anche non soltanto per strategie commerciali. Lei mi chiedeva perché vengono cancellati i voli, alcuni perché sono irrimediabilmente vuoti, ma appunto in questo caso la compagnia cancella ma deve rimborsare in denaro e non con un voucher. In altri casi abbiamo testimonianza da parte dei consumatori di pratiche scorrette di questo tipo: vengono messi online come disponibili dei voli che poi vengono cancellati subito dopo la prenotazione e il pagamento da parte del consumatore. Questo è proprio un comportamento fraudolento. Cioè, che non è un modo per fare cassa, insomma. Incassano denari contanti da parte dei consumatori e restituiscono dei voucher. Chiaramente poi queste cose, diciamo, in caso di vere e proprie truffe, vanno poi, diciamo, verificate, e ci deve essere poi anche nel caso, insomma, una sentenza di un'autorità o anche, insomma, in casi penali della magistratura. Dal punto di vista del consumatore, però, come muoversi, come riconoscere, se possibile, queste situazioni, e anche quali sono le compagnie, e torno alla premessa, in attesa di conferma di queste notizie, che però che vengono segnalate avere, fare questi comportamenti, insomma, in alcuni casi, diciamo, non del tutto corretti, in altri casi proprio fraudolenti, Dona. Una prima testimonianza di questa scorrettezza ci viene dall'ENAC. L'ENAC è l'autorità che presiede all'aviazione civile, per cui un soggetto indipendente che per mestiere deve proprio verificare se i regolamenti comunitari sono attuati correttamente dalle compagnie in Italia. Ha fatto un primo avviso 5 giorni fa, dicendo alle compagnie che non si poteva continuare a cancellare causa Covid, visto che il Covid sta mollando la sua presa. Ed è tornato ieri la stessa ENAC a ribadire che sta per sanzionare. Questo vuol dire che nei 5 giorni passati, nonostante i warning dell'autorità di settore, le compagnie hanno continuato a farlo. Ci sono anche nomi... la nostra compagnia di bandiera. Ecco, sì, ci sono nomi e cognomi delle compagnie. Ai nostri sportelli non ne manca nessuna. All'Italia lo sta facendo EasyJet, lo sta facendo Ryanair. Cioè le tre compagnie che da un punto di vista di numeri fanno viaggiare più persone in Italia. C'è modo di come dire, di prevenire questa cosa? No, non c'è modo, perché sì, chiaramente... Beh, intanto una cosa da fare nel caso in cui ci viene offerto un voucher, ripeto, per voli successivi al 3 giugno, perché prima ricadiamo nella... Prima era un'altra storia, assolutamente. Esatto. Per voli successivi al 3 giugno bisogna insistere per un rimborso in denaro. Qualora ci venga inviato via mail un voucher, lo si deve accettare con riserva, di richiedere quelli che sono i nostri diritti e quindi semplicemente un rimborso in denaro. Ricordiamo che la normativa comunitaria, parlo di una normativa che ha 15 anni, quindi insomma non è una novità di questi giorni, chiaramente quella che ci protegge dalle cancellazioni, dai ritardi, prevede persino un diritto al risarcimento del danno qualora si dimostri che insomma c'è un comportamento speculativo da parte della compagnia. Del resto le sanzioni dell'ENAC sono abbastanza blande, non credo che facciano paura a questi grandi giganti, perché parliamo di 50.000 euro. Ecco, quindi non aspettiamoci da questo fronte, insomma, che arrivino delle novità. Speriamo che cambino i comportamenti, come avrebbe detto qualcuno, a prescindere dall'ENAC. Grazie Dona, grazie per essere stato con noi, buona giornata. 13:29 minuti. Avete sentito com'è possibile, diciamo, richiedere il rimborso e quindi insistere sulla richiesta di rimborso e non accettare oppure accettare con riserva il voucher. L'altra domanda, cioè come capire quali di questi voli sono destinati ad essere cancellati, è praticamente impossibile. Bisognerebbe mettere un segnaposti a fianco alla prenotazione, potrebbe essere una cosa richiesta alle compagnie, far capire a chi sta prenotando il volo, se quello è un volo, soprattutto in questa fase dove molti voli non raggiungono il numero minimo sufficiente per volare, quanti posti sono già stati prenotati, e questo potrebbe essere un piccolo elemento di trasparenza. Staremo a vedere. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. Borsa, titoli e poi uno studio interessante che mostra come l'Italia del lockdown, l'Italia sia uscita dal lockdown ancora più diversificata e con delle disuguaglianze ancora più accentuate di prima. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, tangenti alla TM di Milano, 13 arresti per corruzione negli appalti ai lavori sulla M2. Zanardi in condizioni stabili all'ospedale di Siena per la quarta notte di fila. In queste ore l'INPS ha avviato le procedure di pagamento per le prime 100.000 domande di bonus per i lavoratori domestici, così su Twitter la ministra del lavoro Catalfo. La riforma fiscale si farà, la conferma arriva dal ministro dell'economia Gualtieri dal telefisco del Sole 24 Ore. Calcio, 27esima giornata di Serie A, si torna in campo stasera, Spal Cagliari, Verona, Napoli e Torino, Udinese. Allora, eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta, 13:36 minuti, di nuovo in diretta con un'ultima ora che arriva dal Brasile, riguarda l'epidemia di coronavirus ed è la stima impressionante sul numero di contagi nella sola città di San Paolo, che è una delle più grandi città al mondo. Ebbene, in questo momento a San Paolo si contano 1.200.000 contagiati dal coronavirus, secondo il primo risultato di una massiccia campagna di test condotta dalle autorità locali. La buona notizia è che si sta facendo una campagna di test e quindi si sta rintracciando la diffusione dell'epidemia in Brasile, un paese che non ha naturalmente una struttura di servizi sanitari paragonabile a quella dell'Europa. La cattiva notizia è che i casi in questa città sono moltissimi, è una città di quasi 20 milioni di abitanti, quindi è un numero che potrebbe anche essere tragicamente destinato ad aumentare. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Non aiuta un dibattito come al solito da scontro tra fazioni su taglio dell'IVA contro taglio al cuneo fiscale. L'idea di una riduzione temporanea dell'aliquota massima, che oggi è al 22%, costa 10 miliardi, che se andassero alla riduzione del cuneo fiscale in busta paga finirebbero come salario netto dei lavoratori. In entrambi i casi si darebbe una spinta ai consumi, ma il taglio dell'IVA privilegia chi vende, l'aumento dei salari sostanzialmente chi compra. Ha detto bene il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, serve una riforma complessiva del fisco, diventato ormai una babella inestricabile, e per fortuna questa sembra essere anche la linea del ministro Roberto Gualtieri, una riforma che porti a un fisco più semplice e più efficace. Oggi ad esempio abbiamo ormai 533 voci di agevolazioni fiscali, 141 eccezioni IRPEF, 70 per l'IVA. Il 25% dei contribuenti paga l'80% dell'intera IRPEF. C'è qualcosa che non va. La pressione fiscale sugli onesti è diventata superiore al 50% perché le persone per bene pagano le tasse anche per i furbi, o meglio per i ladri, e l'evasione fa mancare almeno 108 miliardi di tasse all'anno. Guai però a far sospettare i nostri partner che quella riforma la vorremmo pagare magari con il recovery fund europeo. Non si può. Sarebbe un argomento d'oro per chi a Bruxelles non vede l'ora di poter dire che siamo la solita Italia. Eccoci qua a 13:39 minuti, come anticipato poco fa parliamo di uno studio che ha analizzato l'Italia pre e post lockdown, prendendo alcuni indicatori a misura di alcune variabili territoriali ma anche socio-economiche, e ha tratto delle conclusioni abbastanza interessanti e utili sicuramente per il futuro. È con noi Fabio Pammolli, del professore del Politecnico di Milano. Buongiorno Pammolli. Buongiorno. Con direttore dell'unità di ricerca Impact presso appunto il Politecnico di Milano, che ha condotto insieme ad altri partner universitari questo studio sulle conseguenze del lockdown in Italia, da cui appunto emerge come le varie zone d'Italia hanno reagito diversamente, e addirittura che diciamo le zone meno colpite dal coronavirus sono state quelle in realtà dove il lockdown, il blocco delle attività, la limitata mobilità delle persone è stata maggiore, e questo è un fatto che può sorprendere e sorprende. Poi ci sono anche aspetti dal punto di vista socio-economico dove si vede che le diseguaglianze si sono accentuate, quindi l'Italia che esce dal lockdown, adesso ce lo siamo lasciati alle spalle da quasi due mesi, un mese e mezzo, è però un'Italia diversa, Pammolli. Prima di tutto l'aspetto geografico, che cosa avete misurato e cosa avete scoperto? Innanzitutto devo citare sia l'unità Impact che insieme a Giovanni Azzone abbiamo fatto partire al Politecnico di Milano, sia i colleghi di Ca' Foscari con Walter Quattrociocchi e i suoi collaboratori, che del CNR con Antonio Scala. E abbiamo analizzato un dataset di Facebook che traccia in modo anonimizzato la mobilità degli individui che hanno optato per la possibilità di tracciare la mobilità, quindi un dataset di quasi 4 milioni di individui anonimizzati sul territorio nazionale. Abbiamo visto che la matrice di mobilità che vedevamo da Facebook per gli spostamenti intercomunali era perfettamente sovrapponibile alla matrice di mobilità di Istat pre-lockdown per tracciare i flussi di pendolarismo, e quindi poi siamo andati a vedere che cosa aveva determinato il lockdown sugli spostamenti degli italiani. spostamenti orientati a, diciamo, al lavoro, al pendolarismo, all'accesso a comuni diversi dal comune di residenza, quindi pendolarismo e turismo. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in realtà, un po' perché il lockdown è stato definito sulla base di eccezioni basate sui codici Ateco, quindi sui settori essenziali, è una misura apparentemente omogenea sul territorio nazionale, che però dice va, guarda che in realtà i settori essenziali continuano a funzionare. Il punto è che i settori essenziali hanno una prevalenza percentualmente più forte nelle regioni che erano anche più colpite dal virus, quindi Veneto e anche Lombardia, e quindi questo è il primo risultato, cioè il lockdown in realtà ha bloccato la mobilità degli italiani in termini relativi in modo più forte nelle regioni che paradossalmente erano quelle meno colpite dal virus. E come si spiega questa cosa? Che cosa può dirci su, su come è organizzato il nostro paese anche in relazione al lavoro e alla necessità di spostarsi per il lavoro? Certo, ma intanto è ovvio che il virus ha colpito le zone più interconnesse, ha colpito il Lombardia e Veneto, zone molto connesse con l'esterno del paese, con la Cina e con i flussi internazionali, ma anche molto connesse al loro interno in termini di flussi di mobilità. E poi c'è un aspetto, cioè le zone che era più difficile bloccare, le zone più interconnesse, quindi era più difficile fermarle. Assolutamente, ma erano anche le zone che erano i bacini naturali di diffusione di un virus, perché sì, è chiaro che erano il cuore pulsante. Se visualizzate un po', è come vedere in un alveare o in un formicaio le zone a più alta interazione, quindi è chiaro, sì, che anche erano le zone in cui più facile era trasmettere il virus, e non è sorprendente da questo punto di vista. In termini relativi abbiamo visto però che c'è un effetto segregazione, cioè che la mobilità si è ridotta maggiormente, con una media nazionale attorno al 70% di riduzione della mobilità durante il lockdown, ma che la riduzione è stata più forte nelle zone che hanno un reddito pro capite più basso, nelle zone che a parità di reddito pro capite hanno un indice di disuguaglianza più forte, e nelle zone che avevano introiti da flussi, diciamo, legati al gettito dei non residenti, quindi tasse di soggiorno, tasse per la seconda casa, più alte. Questo è un aspetto importante. Tra l'altro, in un secondo studio che non è ancora uscito, confrontiamo Italia con Francia e Inghilterra, dove questo fenomeno è ancora più pronunciato che in Italia, e però si vede che le zone periferiche, le zone meno connesse, sono quelle che sono state più isolate in termini relativi, non solo in termini assoluti, dal lockdown. Questo è un aspetto importante, perché ci dice che probabilmente, e qui non voglio fare, come dire, eccessi di inferenze dalle nostre risultati, il nostro è un paper sentinella, che tra l'altro, sì, fu scritto ad aprile, che esce oggi, quindi l'importante sempre, secondo me, è evitare di, come dire, trarre, sì, inferenze che non sono consentite. Sì, le chiedo di arrivare alla conclusione, perché poi purtroppo, certamente, non abbiamo più tempo. Sicuramente rischiamo di trovarci con un paese più diviso di quanto non fosse prima, e questo è nell'immediato un aspetto a cui guardare. Grazie Fabio Pammolli per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. E buon lavoro naturalmente. 13:45 minuti, se volete questo studio lo trovate naturalmente in rete in inglese per approfondire questi aspetti su come è cambiata l'Italia durante il lockdown. Ci fermiamo, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.